Amore, amore mio, queste mie mani vuote son piene solamente di carezze per te. Amore, amore, amore, io non ho niente al mondo altro che mille ore da dedicare a te. Lo so, lo so, lo so, non è da me che tu potrai avere quello che puoi avere. Lo so, lo so, lo so, ma non fa niente, non ci voglio pensare. Amore, amore mio, io ti voglio insegnare a vivere la vita momento per momento come me.